Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono incontri che più di altri sono scritti nel destino. Incontri che non cambiano solamente due persone, ma cambiano la storia. Quello che vogliamo raccontarvi oggi a Destini Incrociati è un incontro che attraversa la vita di tutti noi. Risuona nelle nostre canzoni, traspare nel nostro modo di leggere la realtà, evoca momenti di un'Italia che si ripete. È l'indimenticabile incontro di arte, musica e amicizia che lega due grandi poeti contemporanei, Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. Giorgio Gaber, Enzo Jannacci. Perché non era, il nostro non era un essere vicini di continuo, ed è forse peggio, non è stato, perché ci vedeva ogni 2 o 3 mesi, ogni anno andavo giù dal Siriano, andavo a trovare, mi diceva, Ianno, la mette sempre sul fisico, L'ultima volta che abbiamo fatto gli Aga Brothers, mi ha dato una fetta di limone, ci siamo caduti il fiato, ci siamo caduti uno contro l'uno e l'altro, ho detto, non si abbiamo più l'età, te la butti sul fisico, non c'è neanche quello. Ad accompagnarci in questo viaggio è la voce di Riccardo Piferi, autore, regista e grande amico di Enzo Jannacci, che con lui ha condiviso spettacoli ed esperienze. Io ho lavorato con Jannacci, ero giovanissimo, a 23 anni, mi ricordo che ascoltavo i suoi dischi nella mia cameretta e poi un giorno, 6 mesi dopo, mi sono trovato in studio con lui a lavorare per preparare la sua tournée di rientro. Dopo gli anni in cui è stato negli Stati Uniti a fare il medico, insomma. Hanno 4 anni di differenza Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, una storia molto diversa alle spalle. Giorgio Gaber Schick, istriano da parte di padre e veneziano da parte di madre, deve il suo cognome a una regione del Goriziano sloveno. I suoi genitori si sono conosciuti e sposati in Veneto e poi, in cerca di fortuna, si sono spostati, come in molti, in Lombardia. Ecco perché Giorgio nasce a Milano, in via Londonio 28, nella zona di Procaccini e Corso Sempione. È il 25 gennaio 1939. Papà Guido ha trovato lavoro come impiegato. Mamma Carla Mazzoranna è casalinga e si dedica lui e suo fratello più grande, Marcello, nato nel 33. In poche parole, è una famiglia piccolo-borghese di certo non ricca, ma nemmeno povera. Anche Enzo Jannacci viene alla luce a Milano il 3 giugno 1935 da una famiglia di origine pugliese. Il nonno Vincenzo, padre di suo padre, si è spostato da Bari a Milano poco prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale. Il ramo della famiglia legato a sua madre, invece, è lombardo. Papà è un ufficiale dell'aeronautica e lavora all'aeroporto Forlanini, quello che oggi è Linate. Parteciperà alla Resistenza, difendendo in particolare la sede dell'aviazione in Piazza Novelli, e la sua fotografia diventerà la copertina dell'album Come gli aeroplani. Le canzoni di Enzo, d'altra parte, sono sempre legate alla sua memoria di bambino e ragazzo in una Milano nei suoi anni di splendore. È il portavisca del tennis, è il parlava de perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. È il portaviscar del tennis, è il gavea d'oeche de bois. Era la prima meraviglia perché era un barbon. La Milano degli anni 50, appena uscita dalla guerra, cerca di ricostruire la sua dignità guardando al futuro, ma senza dimenticare il passato. Cominciano a sorgere i primi grattacieli, bassi, se confrontati con lo skyline di New York, ma avanguardistici, in un'Italia che in gran parte è ancora rurale. Lo spazio della periferia comincia a imporsi sulla città. Sorgono nuovi quartieri per contenere le imponenti ondate migratorie che stanno invadendo il nord. Le case di ringhiera, pensate per economizzare i costi, sacrificano la privacy di chi vi abita e non c'è litigio che non sia di pubblico dominio. Tutti sanno tutto di tutti. Ogni quartiere è come un grande paese dall'umanità variegata. Se la guerra è finita, l'opposizione al potere politico ed economico continua con la cultura, per esempio in luoghi come il teatro di Paolo Grassi e Giorgio Strehler, in origine popolare e ispirato a Brecht, per arrivare all'esperienza di Dario Fo e Franca Rame negli anni successivi. Enzo Jannacci e Giorgio Gaber vivono questa realtà con occhi spalancati, cogliendo ogni stimolo, ancora ignari del fatto che il raccontarla, questa realtà, diventerà la missione della loro vita. Ci ritroviamo a parlare, a discutere, per vedere a che punto della storia siamo, per vedere cosa ci sembra più rilevante in un certo periodo, e quindi a poco affrontiamo i temi più salienti. Gaber e Iannacci si incontrano per la prima volta alle superiori. Iannacci fa il classico al Manzoni, Gaber fa ragioneria, entrambi con buoni risultati. Enzo è in apparenza stralunato nello studio e invece metodico e disciplinato, tanto da decidere, dopo aver conseguito la maturità nel 1954, di iscriversi alla facoltà di medicina. Giorgio intanto ha una salute cagionevole che gli procura continui problemi. Ha passato l'infanzia continuamente ammalato e adesso da ragazzo ha subito un brutto infortunio al braccio sinistro che gli ha procurato una lieve paralisi alla mano. Il dottore gli impone ancora un'attività regolare che funzioni da terapia di rieducazione motoria. Visto che suo fratello maggiore Marcello suona la chitarra, decide di cimentarsi anche lui nella scoperta di questo strumento. Come ricorda Riccardo Piferi e come lo stesso Gaber dirà spesso, è da questa malattia che nasce tutta la sua carriera. Sai che Gaber appunto aveva questo problema, avuto in giovane età ha avuto questo problema di poliomielite, questa cosa che, per cui ha cominciato a suonare la chitarra perché per fare in modo di riacquistare l'uso del braccio. Man mano che si esercita, Giorgio Gaber si appassiona alla chitarra e non se ne distacca neanche quando finalmente guarisce. Non pensa ancora a cantare, si diverte ad essere semplicemente uno strumentista e guarda i jazzisti americani come a dei miti. Barney Kessel, Tal Farlow, Bill Bauer. Esibirsi non gli interessa. Usa la musica come hobby che gli serve per distrarsi dallo studio e appena può va a sentire i suoi beniamini, come Franco Cerri, mito italiano del jazz. Alla fine della guerra, naturalmente, con l'arrivo degli americani, allora lì è nata un po', sì, si voleva fare del jazz, ma dove, come, piano piano, e l'aiuto degli americani è stato molto importante, il loro arrivo in Italia, i dischi annunciavano dei brani americani, però senza dire che lo erano. Per esempio c'era un brano di Duke Ellington che si chiamava Sophisticated Lady, e lui lo chiamava la signora sofisticata di Del Duca. Franco Cerri suona spesso alla Taverna Messicana e Milano scopre il jazz. Per tutti gli anni 50 sbocciano i locali fumosi, le bettole, i giovani sognano l'America. Sta arrivando il miracolo economico, la leggerezza è nell'aria e si mescola alla voglia di divertirsi senza troppi pensieri. Come Giorgio Gaber, anche Enzo Iannacci si avvicina alla musica, mettendo nello studio molto impegno. Al Conservatorio di Milano studia con il maestro Centemeri, insegnante dei più noti orchestratori italiani quali il maestro Giampiero Boneschi e il maestro Pino Calvi, e si diploma in armonia dopo 8 anni di pianoforte. Inizia a girare per i locali della città dividendosi tra il jazz e il rock and roll. Taverna Mexico, Aretusa, Santa Tecla. Ogni sera c'è qualcosa da fare, ogni sera c'è qualcuno da incontrare, con cui dividere la notte e una bottiglia. Il suo spirito è già quello del grande improvvisatore che racconta il suo autore e amico Riccardo Piferi. Magari, non so, se lo conoscevi, conoscendolo la prima volta, ti poteva addirittura sembrare una persona antipatica. In realtà era a volte molto triste, ma quando decideva di essere molto divertente lo era in modo straordinario. Se vuoi ti racconto un aneddoto. Una sera eravamo a Trento e finito lo spettacolo andammo in un albergo di ottima qualità a dormire, dove il portiere di notte si ostinava a parlarci in tedesco, e a quel punto Enzo si mise a quattro zampe e fece il pastore tedesco porgendo i documenti con la bocca al portinaio. Quindi per dirti quanto in realtà fosse in grado di improvvisare in qualsiasi situazione cose così strabilianti che ribaltavano la situazione. Le vite e gli esordi di Enzo Iannacci e Giorgio Gaber vanno avanti in parallelo. Gaber, ancora adolescente, si unisce come chitarrista al gruppo di Ghigo Agosti, che si chiama Ghigo e gli Arrabbiati. Agosti è un artista all'avanguardia, tra i primi a sperimentare tutti quei generi di origine americana e inglese che stanno conquistando i ragazzi. Emulando gli esponenti di spicco della musica nera, comincia a girare i locali della città a partire dall'Hot Club. Giorgio esordisce al Festival Jazz del 54, ma si presenta al pubblico con il suo cognome completo. Ci vuole ancora un po' prima che diventi semplicemente Gaber, e ancora un po' di più perché sia per tutti il signor G. Ci sono spettacoli diversi, perché ci sono spettacoli magari tutti di prosa, in cui allora si parte da un tema centrale, lo si allarga, lo si dipana nelle sue varie possibilità di allargamento. Invece questi spettacoli fatti di monologhi e di canzoni naturalmente hanno bisogno di molti spunti, e quindi anche se poi questi spunti verranno collegati l'un l'altro attraverso un fatto di associazione emotiva, ecco, comunque si prende in esame l'aspetto di un periodo e si cerca di raccontarlo. Devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo. Scende l'acqua, scroscia l'acqua calda, fredda, calda. Enzo Iannacci è un uomo complesso, con una identità dalle mille sfaccettature sia sul piano umano che sul piano professionale. Si diploma al conservatorio, scopre il jazz e il rock, incomincia a suonare per i cabaret di Milano, facendosi notare come bravo intrattenitore e presentatore. Intanto porta avanti anche gli studi in medicina con lo stesso interesse. La sua laurea all'Università degli Studi di Milano gli consente di esercitare la professione e non sopporta chi, una volta famoso, gli chiede come riesca a fare entrambe le cose. Sì, beh, la cosa che lo faceva più arrabbiare è quando i giornalisti gli chiedevano, o gli chiedono anche adesso, come concilia, e lui si incazzava molto su questo. Aspetto confuso, testa apparentemente tra le nuvole, tristezza velata che prende la forma della comicità quando è sul palco, ma anche medico molto apprezzato. Enzo Iannacci ci sa fare con i bambini, e anche se i suoi metodi non sono sempre ortodossi, chi è stato curato da lui ne parla come di un grande professionista. Per essere pazienti di Iannacci bisognava essere un po' pazienti, nel senso che bisognava aspettare che ci fosse, ma soprattutto molto fisicamente molto sani, perché lui curava in modo intenso. A me ha curato una polmonite in 3 giorni. In quei 3 giorni non so bene, ho delirato credo per almeno 48 ore, però poi il terzo giorno ero in piedi, insomma. Era molto terapeuta intensivo, insomma. Gaber, che ha cominciato a suonare la chitarra per esigenza e ha continuato per passione, si è ritrovato a suonare prima su un palco, poi su un altro, scoprendo di voler fare proprio questo nella vita. Per guadagnare 4 soldi si dà alla musica leggera, perché con il jazz, il suo grande amore, non è facile campare. Poi un giorno entra nei Rock Boys, un gruppo appena fondato da un ragazzo nato a Milano ma originario di Foggia, un po' sopra le righe ma indubbiamente di grande talento, che si chiama Adriano Celentano. Io credo di essere normale come mi comporto, soltanto che diventando un po' celebre ho scoperto che questo mio modo di comportarmi sciocca il popolo. E quindi ho notato questa cosa qui e niente, allora io continuo a essere così. I Rock Boys sono originariamente 4, oltre a Celentano. I 3 fratelli Ratti alla batteria, al basso e alla chitarra, e Ico Cerruti alla seconda chitarra. Celentano non sa l'inglese e cambia tutte le parole, ma il momento è giusto, il rock sta sbarcando in Europa e perfino in Italia, e i Rock Boys hanno successo in molti locali milanesi in voga nel periodo. Una sera, alla fine del 56, al Teatro Smeraldo, incontrano un'altra band romana formata come loro da ragazzi. Sono un gruppo di fratelli trainati dal più giovane, il 15enne Antonio Ciacci, che di lì a poco si sarebbe presentato al pubblico come Little Tony. Quelli dei Rock Boys non sono spettacoli puramente musicali. Le canzoni sono inframmezzate da pezzi di cabaret che vanno dall'esilarante imitazione di Jerry Lewis a balli sconclusionati per arrivare alle gag più o meno improvvisate. Celentano comincia a muoversi nel suo modo inimitabile. Gaber trova uno spazio e mette le basi già adesso per il suo teatro canzone. Teatro canzone è un teatro in cui l'interprete usa monologhi e sintesi dell'argomento di cui parla attraverso la musica. È un equilibrio tra il cantautore e il monologhista, l'attore, ma nel caso di Gaber è ancora di più, insomma. Credo che Gaber abbia scritto la storia di 30 anni di questo paese nei suoi spettacoli, insomma, sicuramente. In Italia dire teatro canzone vuol dire Giorgio Gaber. Questo genere, questa formula di spettacolo nasce negli anni 70. A un certo punto io decisi di fare a meno della televisione, dei dischi, mi dedicai esclusivamente al teatro e affrontai il teatro naturalmente sempre con le canzoni, ma collegando le canzoni con dei raccordi recitati. Questi raccordi recitati poi sono diventati sempre più recitati, più scritti, e quindi in effetti a poco lo spettacolo è diventato un'alternanza di monologhi e di canzoni. Presto nei Rock Boys entra anche Enzo Iannacci, al pianoforte. Arriva dall'esperienza di tastierista con i Rocky Mountains, che hanno avuto un discreto successo in città, lanciati dalla voce di Tony Dallara. E quindi grazie a Celentano che Gaber e Iannacci suonano la prima volta insieme, anticipando un sodalizio importante destinato a durare 40 anni. Intanto perché ci ha dato due grandi dello spettacolo e della cultura in questo paese e di questi anni. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì, l'Armando era proprio il mio gemello, per oggi volevo bene come fosse mio fratello. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo alla fine degli anni 50 e Milano, che guarda all'America, si sta poco a poco riempiendo di locali in cui si suona il jazz e ci si diverte con il cabaret. Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, per metà pugliese il primo, per metà istriano il secondo, hanno 4 anni di differenza e si sono incontrati per la prima volta alle superiori. Gaber ha iniziato a suonare la chitarra a scopo terapeutico per riacquistare la mobilità di un braccio bloccato da una malattia infantile. Iannacci ha studiato al conservatorio e dopo 8 anni di studio si è diplomato in armonia. Adesso, circa 20 anni entrambi, si esibiscono in giro per i locali della città con i Rock Boys di Adriano Celentano, dando il via a un sodalizio destinato a durare 40 anni. L'ammirazione di Enzo per Giorgio è palpabile. Giorgio era eccezionale come attore. Non ho mai visto nessuno recitare così bene. È un periodo in cui i gruppi si mischiano spesso, le contaminazioni sono all'ordine del giorno, i musicisti passano da una band all'altra senza rancori da parte di chi è stato lasciato. Gaber e Iannacci capiscono immediatamente che insieme possono fare grandi cose e quindi, senza smettere di esibirsi qua e là, fondano un duo, i Due Corsari, antesignani della canzone demenziale, che oggi ha come esponenti di spicco Elio e Le Storie Tese. Mettono in musica testi umoristici e talvolta dissacranti, inventando un genere. Iannacci, bravissimo intrattenitore ma prima di tutto pianista raffinato, scopre per caso la sua strada. Sicuramente, perché poi la loro storia è una storia strana, nel senso che Iannacci è stato il pianista di Gaber e pare, questo racconta la leggenda, la racconta anche Iannacci, che lui facesse uno spettacolo con Gaber e che a un certo punto che Gaber lo facesse suonare girato verso il fondale, quindi neanche verso il pubblico, con un pianoforte di quelli verticali, e che a un certo punto Enzo dovesse suonare i bonghi, e una sera Enzo, prendendo i bonghi da sopra il piano e raggiungendo il proscenio per fare il suo pezzo con i bonghi caddero per terra, e Iannacci guardò il capo della band, che in quel momento era Gaber, gli dice: scusa Giorgio, mi sono caduti i bonghi. E io lo dissi in un modo così buffo che tutto il teatro rise per molto e applaudì, e da quella sera la gag venne ripetuta finta, e così nacque lo Iannacci comico, perché comunque lui nasce come musicista, insomma, ecco. È così che tutto comincia. I Due Corsari incidono i primi brani con la Ricordi, l'etichetta che ha già sotto contratto Gaber, e Gaber e Iannacci vengono ufficialmente lanciati tra le nuove scommesse dello spettacolo italiano. Una chitarra, una voce, uguale un cantautore. Una chitarra, una voce, un po' di mare, uguale un cantautore napoletano. Una chitarra, una voce, un paio di scarpe da tennis, uguale un giovane cantautore milanese, Enzo Iannacci. stati intronati, per mezz'ora si sono insultati e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo l'ha già segnalato a chi l'ha visto. Lì non hanno mai trovato nessuno, il giretto dell'idroscalo, quando la moglie lo lascia solo, piace in diretta con Sandra Milo. Giro, giro! Per non parlare di mio fratello che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto al telefono giallo. Gaber e Iannacci sono una coppia unica. Preciso e metodico il primo, sconclusionato ed esilarante il secondo. Suonano insieme sera dopo sera e diventano come fratelli. Portano avanti anche percorsi individuali paralleli di grande successo, ma insieme sono veramente esplosivi. Divertiti e divertenti, mettono in scena un'Italia che sta cambiando, seguendo passo a passo l'evoluzione di una società che diventa urbana, tra problemi di lavoro e relazioni sentimentali confuse, poveri ed emarginati, personaggi da bar che affollano la vita di tutti. Enzo Iannacci è un uomo complesso, come ricorda divertito il suo amico e autore Riccardo Piferi. Allora, Enzo ha almeno due facce, ma sono abbastanza... Enzo è una cooperativa di persone che stanno dentro una persona. Siamo negli anni 60, Milano è in fermento. Al CAB 64 e poi al Derby si ritrovano tutti, Dario Fo, Cocchi e Renato, Bruno Lauzi, mescolano idee e stimoli, fanno tardi la notte con un bicchiere in mano, inventano follie musicali innovative, impensabili fino a poco prima. Intanto Gaber incontra Sandro Luporini, pittore di Viareggio che diventerà il coautore di tutta la sua produzione musicale e teatrale più significativa. Sul palco Iannacci e Gaber non potrebbero essere più diversi, e forse è per questo che stanno così bene insieme. Quello che secondo me è importante di questo incontro è che si incontrano due personalità diametralmente opposte. Cioè, ricordo che una volta Gaber lo disse anche a me, mentre lavoravo con gli Iannacci, diceva: voi due siete due cialtroni, perché noi lavoravamo tantissimo sull'improvvisazione, sulle cose all'ultimo minuto, su cambiando lo spettacolo quasi tutte le sere. E invece Giorgio era uno straordinario rifinitore e uno straordinario interprete precisissimo. Io lo prendevo in giro dicendo che sudava tutte le sere la stessa quantità di sudore facendo lo spettacolo. Era veramente, erano due persone che riuscivano a toccare sia l'anima che riuscivano a farti ridere tantissimo e anche a farti pensare in due modi completamente diversi in realtà. Come facette Mammet, non occupatemi il telefono, birra, una fetta di limone, il cane e la stella. E con questi titoli, tra gli altri, che esordiscono i due corsari. Il duo si scioglie dopo questi primi successi, che vedranno una ristampa nel 72, perché entrambi, sia Gaber che Iannacci, sentono l'esigenza di esplorare una carriera da solisti. Senza per questo perdersi mai di vista, come grandi amici e come professionisti, che collaborano sul palco e in sala d'incisione. Nel 61 Gaber si presenta a Sanremo con Benzina e Cerini, scritta per lui da Enzo, che tuttavia viene esclusa in finale e non ha molto successo. Iannacci è un individuo bizzarro che si lancia in una bislacca operazione di marketing quando, per vendere il 45 giri Il cane con i capelli, abbina al disco un grande cane di peluche con tanto di capelli. Talentuoso musicista, straordinario improvvisatore ed artista eclettico, viene scritturato dal regista teatrale Filippo Crivelli per recitare con Tino Carraro e Milli nello spettacolo Milanin, Milanon. È in questa occasione che scrive Andava a Rogoredo, uno dei suoi pezzi più famosi. Più tardi, con il disegnatore Bruno Bozzetto, creatore del Signor Rossi, Iannacci firma il celebre carosello Pildo e Poldo. Nel 63 segue come pianista la tournée dell'amico Sergio Endrigo e canta L'ombrello di mio fratello nel film La vita agra, il lucido ritratto di Milano girato da Carlo Lizzani e tratto dall'omonimo romanzo di Luciano Bianciardi. La colpa è delle donne se diventano delle donne. La colpa è tutta della civiltà industriale. A noi sembra che la società neocapitalistica esalti il sesso, ma è tutto un inganno, tutto un inganno. Infatti, per vendere un dentifricio, un trattore, una macchina calcolatrice, un detersivo, che cosa fanno? Si schiaffano davanti sempre, esclusivamente, il simbolo sessuale. Un paio di tette, una coscia. La fama di Gaber intanto si consolida. Partecipa nel 66 al Festival della Canzone Napoletana con Aurelio Fierro. Gira moltissimi caroselli, partecipa a svariate trasmissioni TV condotte da altri e ne inventa e conduce di sue. Per esempio, E noi qui, il suo ultimo show del sabato sera datato 1970. Gli viene tutto bene, presenta, canta, suona, diventa uno dei volti più popolari della televisione italiana, senza per questo dimenticare gli amici. Con i Rocky Mountains e con lo stesso Iannacci, suona nei locali di Milano anche in quelli meno famosi, per divertirsi come al solito. Una curiosità, è proprio Gaber che, dopo averlo notato, contribuisce a lanciare il giovane Franco Battiato. Con Mina, altra grande star italiana, realizza una serie di recital e la tournée ha così successo che viene ripetuta, finché decide che il teatro è la sua strada e la televisione non fa più per lui. Nonostante le mille cose che fanno separatamente, però, Gaber e Iannacci restano amici fraterni che si cercano continuamente. E il Gaber amico è quello che un giorno io facevo la trasmissione con Chiambretti e noi naturalmente non andava mai in televisione, però io mi arrischiavo a chiedergli dei favori, però mi ha chiesto Chiambretti, ma se potrebbe venire Gigio Gaber a farci una cosa. Lui stava provando in teatro e mi ha detto, vabbè, insomma, io no, lo faccio per te, eh. Mandami una troupe e io ti faccio una cosa. E Chiambretti non lo mandò e questo non lo fece andare in bestia, altrimenti la pagai io. Vabbè, questa è una cosa. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nella Milano degli anni 60, quando due incredibili talenti si uniscono nel duo I Due Corsari. Sono Enzo Iannacci e Giorgio Gaber. Diversi per natura, storia personale e formazione, insieme si divertono come dei matti, mescolando la musica alla comicità con un effetto esplosivo. Iannacci nasce come musicista, diplomato al conservatorio dopo anni di studio di pianoforte. Inizia a suonare con Gaber venerandolo come un maestro, nonostante l'amico sia più giovane di lui di qualche anno. Nel frattempo esercita anche la professione di medico con grandi risultati. Tutti si chiedono come faccia a conciliare due mondi così diversi, ma lui, sregolato e geniale, semplicemente ce la fa. Gaber intanto, spettacolo dopo spettacolo, si fa conoscere per quello che è, un poeta contemporaneo. Gaber è un grande anche perché è l'unico italiano autore, cantante, attore che sia riuscito a trovare una strada personale e così forte e anche molto molto prolifica rispetto ai francesi o comunque agli altri. In Italia è l'unico che ha fatto questa cosa. I Due Corsari incidono dischi, diventano famosi, intrattengono relazioni con il mondo del cabaret emergente, Cocchi e Renato per esempio, e tutti gli altri ragazzi del derby, ma anche Dario Fo. Nel frattempo portano anche avanti due carriere parallele, saltando qua e là tra la televisione e il teatro. Hanno due modi differenti di arrivare al pubblico. Gaber passa dall'amore alla politica, in una sintesi perfettamente in bilico tra la comicità e il gusto degli chansonnier francesi. Iannacci fa ridere e commuovere con storie di miseria e di individui esclusi dalla società, inventando ritornelli solo in apparenza semplici, ma in realtà densi di significato. Basta ricordare Vengo anch'io, no tu no, una metafora dell'emarginazione. Oppure Ho visto un re, graffiante satira sociale camuffata da canzoncina cantata in coppia con Fo. Alcuni episodi di censura spingono Iannacci ad allontanarsi almeno temporaneamente dalle scene e così, per ottenere la specializzazione in chirurgia generale, si trasferisce in Sudafrica. L'occasione è il classico treno che passa una volta sola, e cioè entrare nell'equipe di Christian Barnard, il chirurgo sudafricano a cui si deve il primo trapianto cardiaco nella storia della medicina. È un'esperienza meravigliosa per lui, una parentesi che gli permette di esercitare pienamente una delle sue due profonde inclinazioni, ma l'altra, quella di showman, spinge con tutte le sue forze per venir fuori. Ma l'Italia, sente Iannacci, non è ancora pronta a forme di intrattenimento così nuove e inesplorate. E così si trasferisce negli Stati Uniti, dove continua a fare il medico. C'era negli Stati Uniti e uscirono in Italia Paolo Conte e Roberto Benigni. Cominciarono a fare le loro cose, no? Uscendo un po' dai ghetti culturali, diventando personaggi pubblici. E lì Iannacci disse: beh, allora se ci sono loro forse posso tornare anch'io a cantare, perché vuol dire che l'Italia è matura per certe cose. Questa è una cosa che lui diceva sempre. Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Iannacci sceglie di ritirarsi per un po' dalle scene, dedicandosi alla medicina. Quando ritorna, la sua fama è notevolmente calata, ma lui continua comunque a incidere dischi che contengono canzoni destinate a un grande successo, per esempio Mexico e Nuvole, scritta da un ancora sconosciuto Paolo Conte, e Faceva il palo, con cui riscopre la sua vena cabarettistica. Anche Gaber nel frattempo ha scelto di abbandonare la TV, decidendo di volersi dedicare solo al teatro. Inventa un genere tutto suo, il teatro canzone, uno spettacolo in bilico tra musica e monologhi che diventa il suo marchio di fabbrica. C'è possibilità di andare in diverse direzioni, di toccare diverse tematiche. È uno spettacolo che mi dà quindi più possibilità di arrivare immediatamente a una serie di problemi che mi sembrano più urgenti, e in tal senso naturalmente la scrittura si è un po' modificata, forse siamo anche cresciuti, siamo diventati un po' più bravi, e quindi ci sembra in qualche modo ora di avere in questa formula una possibilità in più rispetto a una commedia, rispetto anche a un grande monologo, ecco. Quindi ci siamo riapplicati in questo genere di spettacolo. È in questo periodo che nasce il signor G, un personaggio che per ammissione dello stesso Gaber non recita più un ruolo, ma se stesso. Non gli importa di guadagnare di meno, di essere meno popolare. Per Gaber tornare a teatro significa ritrovare la propria autenticità di uomo come gli altri, pieno di contraddizioni e dolori, nel quale tutto il pubblico possa identificarsi. E mentre vengono ripubblicati i successi cantati in coppia con Iannacci, anche per il dottore inizia una nuova vita fatta di TV, recital e album di successo, fino all'ultimo recente tributo organizzato da Fabio Fazio. 2001, va in onda il programma 125 milioni di cazzate. Già segnato dalla malattia, Gaber compare in scena con quattro storici compagni di avventure per giocare una surreale partita a carte. Lui, Celentano, Albanese, Fo e Iannacci cantano tutti insieme Ho visto un re. Il 1 gennaio del 2003, primo giorno di pensione di Iannacci, Giorgio Gaber si spegne dopo una lunga malattia nella sua casa vicino a Camaiore. Due giorni dopo, ai funerali all'abbazia di Chiaravalle, Enzo, distrutto dal dolore, riesce a dire soltanto «Ho perso un fratello». Il fratello di una vita spesa insieme, a divertirsi e a divertire, a raccontare un mondo in cui solo ridendo ci si può salvare. Ho visto un re. Ciao, scusa. Ha visto un re. Ah, beh, sì. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime. Qui deve dire ma tante che. Ma tante che. Sai, abbiamo da 4 mesi, scusi. Ma tante che. Bagnava anche il cavallo. Ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh, sì, beh, beh, sì. È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui c'era. Ho promesso. Questo viene dopo, viene dopo, questo viene dopo. Povero re. Scovo. Povero re. E povero che cavallo. Sei bello, sei bello, sei bello.